All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Benvenuti, benvenuti, accomodatevi a questa nuova puntata della cena dei regini. Iniziamo a parlare da quello che è successo all'Aus, un febbraio impegnativo, non complicato, ma comunque diciamo elaborato. Abbiamo fatto tante cose, ragazzi, c'è da dire veramente tantissimo. Abbiamo ospitato artisti, si può dire tutti i generi, che hanno assistito alla cena, hanno partecipato alla cena, sono venuti qua a trovarci. Abbiamo dato ospitalità anche agli artisti. Abbiamo ogni settimana due eventi classici, fissi, storici ormai, che si sono tenuti qua anche a febbraio. Abbiamo dato lavoro anche ai ristoratori della zona, che lavorano grazie alla cena, alla pizzeria, ai bar e via dicendo. Quindi comunque anche questa situazione. 5 cene a febbraio, 5 famiglie regine nei guai che hanno trovato una cena per loro, c'è la possibilità anche di fare una cena vera. E tutto questo grazie all'associazione della Gilda degli Artisti. E puoi iscriverti anche tu, associati adesso, gildati, gildartisti.org. Puoi venire a far parte di questa nuova realtà, mi raccomando. Ti diranno che non esiste e che Reggio è solo da buttare via, ed è vero, perché Reggio è una città immaginaria, ma la Gilda è reale. Tu puoi seguire con noi le varie iniziative che si tengono qui. Quindi gildartisti.org, ci si registra online, senza impegno, gratuito, liberamente, e poi si può partecipare a tutto quello che avviene. Una cosa che ormai è istituzionale, è l'evento per eccellenza ormai della Gilda, è la cena dei regini. Puoi partecipare anche tu prenotandoti online, anche questo gratuitamente. Si viene, si condivide del cibo che si mangia e si condivide con gli altri. Parte si dà alle famiglie regine che sono nei guai, quindi anche uno scopo diciamo in più per partecipare, e poi si registra la trasmissione e potresti essere qua con noi. Fantastico, quindi comunque ragazzi, un'iniziativa straordinaria. Ringraziamo anche tutti quelli che ci seguono, e anche la settimana scorsa la puntata con Luca che ha avuto un grande successo. E ragazzi, comunque, a parte le iniziative, anche un evento diciamo tecnico. In questa settimana ho rilasciato il codice sorgente del sito, quindi chiunque può andare online, guardarlo, può dare il suo contributo per migliorare il sito, può creare un suo sito, è molto semplice, un programmino veramente piccolo, meno di 4K, che si aggancia direttamente a un tema per siti web che si trovano a milioni su internet gratuitamente, e lo fa funzionare come se fosse un sito, cioè nel vero senso della parola, dà vita a un nuovo sito interattivo a costo zero e senza risorse tecniche. Ragazzi, si chiama Hot Coffee CMS, è scaricabile, si può utilizzare liberamente, si può dare anche un contributo per chi è più smanettone, diciamo così, gli smanettoni che vogliono vedere e vogliono partecipare perché io l'ho scrissi per creare il sito, quindi velocemente, però magari c'è da casa uno con calma, se lo vuole guardare vuole dare un suo contributo. Ragazzi, ricominciamo con una nuova puntata della cena dei regini dalla Gilda degli Artisti, e noi torniamo adesso dopo un piccolo spazio musicale. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Bacco.it per guardare tutta la puntata. Cliccando la cena dei regini potete rivederle tutte. C'è la goccia di Bacco.it per commentare e per prenotarti tu come prossimo commensale alle prossime cene. Questo è lo spazio delle notizie alla strada, le notizie più importanti ma anche più divertenti che noi ti offriamo per farti quattro risate assieme a noi e commentarle assieme. Ragazzi, la prima notizia è proprio regina al 100%, regina al 200%, anzi, perché si sa, il corso è messo come è messo, ci sono i lavori, non si può passare, quindi incredibile ma vero, il gregge di pecore attraversa l'autostrada, finisce su un'autostrada. Cioè, che vuol dire? C'erano questi facevano la 106 qua a Reggio Calabria, d'improvviso gregge di pecore con cani pastore e pastori al seguito. Una scena un po' da film, quindi hanno percorso l'autostrada per un tratto e poi si sono dileguati, seguiti dalle forze dell'ordine, hanno creato un po' di scompiglio. Questo perché il corso è in rifacimento, quindi il gregge deve trovare un altro sbocco ed è finito sull'autostrada. L'altro è successo qua vicino, mi devo anche preoccupare, perché voglio dire, ragazzi, si cammina sulla strada e c'è un gregge di pecore. Quanto è bella questa cosa! Ogni tanto ci ricordiamo anche noi di essere un po' bucolici, un po' vecchio stile, insomma. Questa cosa è bella, mi raccomando. Da stasera saranno tutti di nuovo sul corso, quindi il pericolo è rientrato. Penso anche l'altra sera, ne abbiamo visti un paio, quindi tutto a posto. Ma ragazzi, per andare altrove, una storia che tocca il cuore e non di centinaia sicuramente di appassionati di motori, perché lui si chiama Ismail Meşioğlu, è un ragazzo turco autista di autobus, ma il suo vero sogno da sempre era avere un camion. Non se lo poteva permettere, quindi se l'è costruito, cioè un camion fatto esattamente da Ismail. Secondo le sue più o meno le sue, come dire, le sue preferenze, insomma. Quindi, che ha fatto lui per diversi anni, è andato a visitare i vari sfasciacarrozze, ha preso la lamiera e ha costruito lui l'estetica del suo nuovo camion, e se l'è costruito nella diffidenza degli amici che invece lo prendevano in giro. E quindi adesso il premio aggiunto a questa cosa, non solo c'è il camion tuo, ma in più hai anche gli amici che ti diranno per il resto della vita: pensa, tu ce l'hai fatta. Quindi il progetto, cioè la versione definitiva, non è proprio un gioiellino, diciamo che c'è qualcosa nelle proporzioni che non mi torna, ragazzi, perché non è, vabbè, diciamo che da lontano forse rende meglio, con lui accanto si vede che c'è qualcosa nelle proporzioni che non funziona molto bene. Però bisogna apprezzare comunque questo ragazzo. Cosa un sogno che voi costruireste anche a casa, cioè avendo il tempo, una cosa che si vorrebbe realizzare a casa, alla Ismail. Una dormita, perché giustamente un letto tipo di quelli là, solenni, a baldacchino, tipo. Avevi chiesto tipo costruire un furgone come gli hippie degli anni 70, che comunque sia può stare tranquillo con gli amici e andare con la spina poi. Era i vecchi Volkswagen, quello. Sì, a voi sarebbe fighissimo. Avere un numero del genere, magari costruito personalizzato, tipo. Bello, bello, io sono della vecchia scuola, quindi io dico direttamente il Daytan 3. perché privarsene, voglio dire. Sognare per sognare, sa, vai. Ma no, fai che la moglie di caccia di casa, dove dormire la notte. Vero, perché c'è il Daytan là e lo puoi utilizzare, quindi comunque funzionava nei cartoni animati, perché non riproporlo, ragazzi? A proposito di cose incredibili che funzionano altrove, ma forse in Italia un po' meno, Irlanda legalizza tutte le droghe, anche quelle pesanti e sintetiche. Fermi con l'entusiasmo, ragazzi, non prenotate subito il biglietto per andare in Irlanda, sicuramente ci sarà un boom del turismo, perché questa scelta è solo un pasticcio legislativo, sarà sicuramente ripreso nei prossimi mesi, perché c'è la legge in vigore dal 77 che è stata dichiarata incostituzionale. Quindi questa legge che proibiva l'uso delle droghe è stata dichiarata incostituzionale. Quindi al momento in Irlanda tu puoi andare in giro a utilizzare qualsiasi tipo di sostanza, un vuoto legislativo incredibile. Che comunque sicuramente sarà colmato, però ragazzi, no, non prima di giovedì prossimo in Irlanda tutto è Però possibile. beh, spacciatori faranno affaroni. Grande spa, bellissimo, cioè, voglio dire, vai là e cioè, fai tipo le svendite di quartiere quando mettono le E cose davanti bancarelle, la no? bancarella. Bellissimo, bellissimo, ragazzi, droghe che bisogna assolutamente non provare, ma c'è una cosa che si può anche tentare, anche questa però a rischio della propria vita, è una moda che viene dal web, si chiama zoo bombing, è scendere delle rapide discese con la bicicletta. Il punto è che a farlo sono degli adulti e le biciclette sono quelle per bambini di 3 anni, anche se de delle ultime ore la moda di farlo con le biciclette per bambini di 6 anni, si vede che già c'è stata un'evoluzione 2.0. Ragazzi, questa cosa sta prendendo tantissimo. I puristi ancora usano le biciclettine, quelle da bambini di 3 anni, che sono quelle là veramente mignon, quindi incredibili, si lanciano lungo le discese e loro, come dire, testimoniano il fatto che su una bici più piccola la sensazione di andare più veloce. Ma E si senza muovono. rischiare la morte farebbero prima a prendere una BMX. Però c'è la sensazione della bici più piccola, Sì. quindi evidentemente poi la cosa estrema di farlo su una bici così Madonna. mignon che veramente Non riesce manco a frenare. assolutamente no. Infatti la velocità varia dai 50 agli 80 km orari con una bicicletta dai bambini di 3 anni, pazzesco, a seconda delle caratteristiche, e quindi comunque una bella molto molto, come dire, Rischioso. impegnativo, rischioso, altro farlo a reggio Qualcuno sarebbe fantastico. Visualizza la cosa. saranno morti a volontà, feriti, ospedali che lavoreranno 24 ore su 24 non stop. Reggio, c'è qualche problema con la durata dell'asfalto, quindi magari ci sarebbe un po' da schivare in più. No, soprattutto adesso con tutto questo maltempo che ci sta, ci sono certi crateri a terra che figurati, vai con la bicicletta, la bici rimane lì impalata e te ti fai un volo praticamente di 40 metri. E quindi ragazzi, noi abbiamo la versione ancora più difficile dello zoo bombing, siamo già oltre, bisogna guardarsi avanti. A proposito di quartieri particolari, difficili, eccetera, è successo a un ragazzo di nome Muharrem, un ragazzo sordo che vive in Libano, questa è una sorella. E improvvisamente loro escono di casa un giorno, vanno a chiedere un'indicazione, e il tizio di indicazione gliela dà col linguaggio dei segni, quindi il linguaggio per sordi. Vanno in un negozio, dice dal panettiere, e il panettiere sa il linguaggio dei segni. Parlano con una persona per la strada e la persona parla con il linguaggio dei segni. Lui rimase scioccato. Se non fosse che tutto il quartiere, per fare un omaggio a questo ragazzo, ha imparato il linguaggio dei segni. Quindi, per poter comunicare con lui, farlo comunicare senza problemi, l'hanno comunque imparato tutti questo linguaggio, e lui è rimasto chiaramente piacevolmente sconvolto fino alle lacrime. In più, questo video, oltre la dolcezza del pensiero, è realizzato da una multinazionale per promuovere i call center per sordi. E adesso io ripropongo la mia domanda: come è fatto un call center per sordi? Pardon in braille. Si fa dando le indicazioni sul telefono. No, pardon in braille. Ho Come videochiamata. ti arriva? Videochiamata. La videochiamata, che può essere una cosa. L'unica soluzione vedo quello, perché non penso un sordo chiama direttamente, dico Paolo, e qua mi serve indicazioni, mi serve questo, cioè che non sente giustamente. La videochiamata sarebbe la soluzione più plausibile, però boh, non si sa mai Giusto, giusto. cosa la società si può inventare. Può essere che c'è comunque di tutto ultimamente, all'altro anche l'Apple recentemente ha presentato dei prodotti che hanno sconvolto i suoi tristi fan, quindi voglio dire, la tecnologia va sempre avanti. A proposito di tecnologie, di nuove mode, ragazzi, grande, grande successo per stavolta un bagno, ma lui è un bagno molto particolare, sia perché si trova all'interno di un ristorante dal nome particolare, il Bang Bang. Grazie, mi confondete con Non Gangbang. confondere con... Cioè, chi è più pratico di questi slang, di questi neologismi, e potrebbe trovare una risposta. No, è il Bang Bang. È un ristorante di sushi a San Diego. Alla gente però il pallino di questo ristorante non è il sushi, non è il nome vagamente ambiguo, è il bagno. Il bagno che è stato tappezzato di foto dell'attore Ryan Gosling. Lui è molto amato dalle donne, è molto voluto bene, diciamo, desiderato, e quindi le donne fanno la fila in locale per visitare poi il bagno con le sue foto, che sono veramente ovunque, cioè le pareti tappezzate di questo attore. Ragazzi, di cosa tappezzereste il vostro bagno? Con quale personaggio noto, ovviamente, famoso? Guardami negli occhi e dimmelo. Berlusconi. No, Terry Scott. Ci ho provato. Perché non innamorato pure di Terry Scott? Perché C'è. ero andato in bagno e ho trovato la rivista dell'enigmistica con Terry Scott che mi fissava e non riuscivo a fare le mie cose, no? Quindi Fantastico. l'ho strappato via e l'ho tolto. E poi l'ho tenuto. Quindi è Quindi lo metterei partito. ovunque nel Una bagno bella questa cosa. per esorcizzare il mio terrore di Gerry Scotti. Quindi è partito con un'avversione verso Gerry Scotti che ti guardava in questo momento di massimo bisogno. Ma oggi il tuo rapporto con Gerry com'è? Intimo. Guardo, ho tre foto in stanza E tre foto. sparse e una cartella piena di Gerry Scotti con tutte Certo, sul computer anche vai a cliccare le. Sì. Gerry Scotti per cercarlo. Ma hai anche. Cioè, per te guardare Gerry è una paura superata comunque. Cioè, ti dà quest'idea. Sto davvero parlando in modo serio. Beh, la cena dei regini mi sembra giusto. Cioè, tu la puoi condividere questa esperienza. No, in realtà è solo demenza e basta. È così, c'è C'era una Gerry cosa. Scotti C'è la e Gerry, l'hai l'ho messo in preso. giro dappertutto. È bello, ci hai mai parlato? No. Ha pensato un po', quindi sì, sicuramente. No, ovviamente. Ragazzi, ognuno ha la sua. Quindi lui Gerry Scotti. Gerry Scotti nel bagno, tappezzato. Tappezzato nei bagni Quindi Gerry non andresti Scotti. più in bagno. Roba quando si siederebbe sulla Ho tazza. preso l'interno della vasca del bidet. Roba che quando si siederebbe sulla tazza direbbe: no, guarda, non riesco a farlo perché mi sento troppo osservato. Non c'avrebbe le cuffie là da mettere. Allora, Gerry, la risposta è L'accendiamo. un personaggio nel bagno. Ma Tappezzare il bagno di. io sono il classico tipo che. Poi dice passaggi di cartoni. No, guarda, tutto tranne che cartoni. Io sono il classico tipo che se fosse da solo in casa e vivrebbe da solo, avrei solamente donne ovunque, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe Attenzione. addirittura, Sì, cioè vai sul classico, sì, sì. sull'argè. E poi un po' di donne famose ovunque, però visto che vabbè, non sarò mai solo, quindi vabbè sì, niente di osè, ma comunque sì, avrei messo un po' di Marilyn Monroe comunque. Giusto da un Questa tocco di idea classe. classica della femminilità. Andrina, ai tempi c'era Alain Delon, immagino, come personaggio, un mito di bellezza maschile. Cosa diremmo? Io non so, ma sì, mi piacciono i cantanti e tutto, Ma di abbellire un bagno no. Non te la senti. C'ero antica, non so, ma me. Bello, giustamente. E mia figlia c'aveva uno che era giovane, no? E c'aveva il mobile e tutte le foto di questo qui attaccato. Però non mi ricordo. Quindi abbiamo beccato la figlia, però non sai chi è, cioè non sapresti riconoscere. Se mi puoi dire un nome giovane, sì. Quei capelli corti. Brad Pitt. Gabriel Garco, direi che è quello che va per la maggiore, ma... però beh, scopriremo anche questo. Jerry Scott degli anni 80. Jerry Scott era giovanotto, era. Però comunque vedremo anche fatto anche dei film, ha fatto. Sarà un attore famoso e le aveva tappezzato il mobiletto del bagno con questo. Tutto di cima a fondo sulle foto. Ah, vedi, ragazzi. Io non lo farei davvero. Io sì, però se ci fosse la possibilità, magari tipo a Pamela Anderson, però in 3D così tipo cappello. Io ho il calendario. Vedi. già sei andata avanti. Allora, c'è stato un periodo che avevo la camera che giustamente condividevo con le mie sorelle, però c'è stato questo periodo che c'era tutta per me. Perché mia sorella dormiva in camera mia madre, in salotto, E avevo tappezzato di vari poster, Pamela Anderson e altre donne, diciamo, semi nude, nude ovunque. C'era niente, mia madre già non poteva entrare in camera e dice che stavo qua in un set del film porno. Poi non contento io, ho messo dei poster, proprio art, dentro l'armadio. Dopo una prima le sportelle e trovavi, il ben di Dio davanti. C'era, per me era tipo, caspita, mi sveglio a mattino, andare già a scuola, già andare a scuola, il buon mattino, cioè mattina presto è deprimente, dico... Perché cosa c'è di bello un buongiorno quando devi spogliare a cambiare questi di cioè di il sole, capito? Raggi di sole. E ti credi che la levanti con le foto? Ancora non resiste. No, anche nel vetro, l'ha tutto coperto. Invece le tue foto hard resistono. ho un dubbio. Cioè, anche lì ho dovuto togliere perché finché mia madre reclamava la potevo lasciare stare. Ma quando entrò mia nonna in camera, sappiamo tutti come sono le nonne. Chi è sta cosa? La prima cosa che fece è prese non il battipanni, ma la scopa. Ragazzi. Non la levati, che sono sempre attaccati. Vedi. Se non mandi le dici da me in casa. Vedrai. Qui, in montata, salvo. Tappezzato. È tutto pieno zitto. Vedete, perché la tecnologia adesso porta grandi vantaggi, tra cui YouPorn. Ma come? Un tipo come te. Ah, vabbè, sembra me. Non mi ricordo il nome. Se ero io, approvo, assolutamente. Invitiamolo subito. Ragazzi, andando avanti, a proposito di relazioni complicate... Resta vedova a 40 anni e vende casa perché comunque il rapporto era finito, ma attenzione, assieme alla casa vende se stessa. L'annuncio sta spopolando in Indonesia, dove questa signora di nome Waina sta vendendo la casa con lei già dentro, quindi penso tu, annuncio cliccatissimo ovviamente nel web, tu ti becchi la casa però ti becchi anche la vedova. Quindi Al preordine. Quindi giustamente lei dice il suo obiettivo principale è restare della casa, però se dovessi trovare un compagno lo vorrei serio, maturo, un bravo padre e un uomo religioso che ti compra su internet. È molto cattolica questa cosa. Ragazzi, old school. Tipo Vecchio Testamento. Infatti ancora tutto vecchio, non antico. Un Ned Flanders. Pensa, tu c'hai un'inquilina già là, però ti vorrebbe anche sposare, diciamo così. Può essere utile, perché voglio dire, non soffri la solitudine. Le cosacce sugli armadi non gliele attacchi, però voglio dire, comunque può essere che può funzionare. Andiamo verso il bollino rosso per un dato che è abbastanza sconcertante, ragazzi. Verso, perché questo è un bollino, diciamo, arancione. quale tra pochi giorni il Papa sarà in visita a Napoli, il lodatissimo Papa Francesco, quale metodo migliore di accoglierlo di una bella suora sexy 4 metri per 9 sulla via Marina, sul lungomare di Napoli. Ci hanno pensato i napoletani, questa tizia con le sue rotondità al vento, vestita da suora sexy, con una collana che richiama, diciamo, molto da vicino un rosario, però delle protuberanze che richiamano altre situazioni diciamo un po' più artistiche. E perché no? Secondo me si incazzerà. I napoletani lo fanno strano, cioè nel senso accolgono il Papa così. Pensa che bello il Papa, ma lui è giovane, questo Papa è così attivo. Ma attento, se insulti la madre, però ti tira un pugno. Ancora non l'ha visto. Poggi l'altra guancia, mi raccomando. Ma infatti, no, cioè gli hanno messo la suora sexy, non è che gli hanno detto c'è un rapporto tra te, bella madre e cose, no, gli hanno sparato solo la suora sexy. 6 metri per 9, attenzione, ancora più grande di quanto è un palazzo. Fissato su una facciata di un palazzo lungo via Marina, ovviamente accesa discussione sull'opportunità di mantenerlo o meno per la visita del Papa. La cosa anche curiosa è che la parte di sotto, diciamo, della suora è vestita con un paio di jeans, quindi comunque moderno. Diciamo che è una sua, guarda come mi guardano, qua la stavano attaccando, qua è, questa è lei nella fase di... Ragazzi, dai, basta che poi che poi diventate ciechi. lo direbbe anche Papa Francesco. Pensa che bello, un cartellone per Papa Francesco, cosa si potrebbe dire? Continua così. Oppure lascia perdere. Facci una grazia. A Reggio sì. Facci una grazia. Oppure un messaggio. Che sia ovviamente popolare. Cioè nel senso che sia una cosa... O un parenda speech, la richiesta del soldino che si fa a Reggio solitamente, che giustamente messo là tu dici magari capisce com'è l'andazzo finanziario della città e quindi può funzionare. Il povero Francesco fermato al Gebbione. Francesco? Fermato al Gebbione. Un parenda speech, no figliolo, che fai, non ci senza soldi compare. Ma un cazzo sì, cosa sono un euro. Giusto, questo monologo tipico del regino, ci piace. I napoletani hanno risposto così, la visita del Papa, spariamo gli auguri. La suora sexy, ragazzi, grandi notizie, mi raccomando, anche voi se avete un messaggio da dare al Papa Francesco, fatelo tramite la cioè, dei regini, mandate questa mail, c'è anche il back.it, vediamo cosa esce fuori, perché... Ricordate. Noi la rimbalziamo, ovviamente. Oh, no, potresti approfittarne per incontrarti vero e proprio con Giri Scotti, capito? Potresti chiedere. Scusi, potresti chiedere. Vorrei incontrare Giri Scotti, mi aiutate. Pregherò per te. Una preghierina per incontrare il vero Giri Scotti, cioè magari ci sta guardando. Poi arrivo Giri Scotti e gli chiedo speech. Oh, Scotti, da speech. Ragazzi. E vado a trovare il televisione subito. Vai, scriviamo da un talk show, da un quiz così magari. Speed dating. No, quella è un'altra cosa. Commentate, c'è anche c'è qualcun il messaggio da dare a Papa Francesco. Quale potrebbe essere? Colpiamo la sua attenzione, focalizziamola sul Reggio. A Napoli hanno scelto questo, la suora sexy, magari a Reggio c'è qualcosa in più. Come dire, la buca per fargli vedere che c'è spazio per tutti, oppure la pista ciclabile, perché le vie del Signore sono infinite anche la nostra pista ciclabile, non si capisce dove va, dove finisce. Tanti idee, ma anche le vostre ragazzi, mi raccomando, c'è anche il back.it per rivedere queste altre puntate. Noi torniamo dopo un piccolo spazio musicale, c'è la regia. Bentornati alla cena dei Regini, l'angolo della classifica. Anche questa settimana la nostra classifica di quelli che sono i punti più strani, più curiosi, raccattati in giro per il mondo. Ragazzi, questa settimana una classifica che sicuramente toccherà moltissimi di voi, perché una delle cose più importanti una volta che si diventa una vera star, una vera rock star, una vera star internazionale, è le richieste da fare durante i tour. Queste sono le 10 richieste più strane fatte dalle star che sono in tour. Quindi, 6 mesi in giro a presentare il tuo prossimo film, hai già vinto un paio di premi Oscar, ti puoi permettere di fare queste richieste più strane agli organizzatori degli eventi. Alla numero 10, la più diciamo popolare, è quella di Moby, che chiede semplicemente tante paia di mutande nuove. Vuole soltanto tantissime mutande nuove. Ragazzi, ti chiami Moby, è un alternativo, e quindi chiede questa pretesa addirittura. Non è bene chiaro cosa voglia farne, usi particolari, però lui vuole tantissime mutande nuove, le pretende a ogni tappa dei suoi tour. Quindi comunque è un tour a basso costo, visto che c'è solo questa richiesta. Avanziamo con le richieste che non ti aspetti. Al numero 9, Prince, che chiede tante bevande energetiche. Prima di ogni suo concerto assume anche delle sostanze, delle particolari vitamine, che è la vitamina B12, che quella serve un po' a potenziare il fisico, e in più richiede della frutta e delle bevande energetiche. Quindi si tracanna la sua bevandina energetica, si spara la pillola di B12 e va a scatenarsi. Quindi comunque nel suo camerino, tra le altre cose, ultimo tocco di classe, il suo camerino alla fine del concerto deve essere ricoperta di una pellicola protettiva in plastica. Quindi lui alla fine deve essere infilato nel domo, ma praticamente ce lo mettono là dentro. È Prince, quindi voglio dire, si può permettere questi vizi. Alla numero 8, ragazzi, sul sedere di Madonna se ne è dette di ogni colore, di ogni tipo, veramente di tutto, ma un dettaglio che bisogna sapere, che è stato reso noto, è che lei ci tiene particolarmente al suo popò, al suo posteriore, e quindi tanto particolarmente che pretende che le tavolette del water a ogni data del suo tour siano nuove. La tavoletta del bagno di Madonna deve essere nuova, cioè pretende questa cosa. Resta in Madonna e deve comunque accomodarsi in maniera particolare, quindi ci ha lavorato molto. Quindi è giusto che abbia questo rispetto in più per una parte così importante. Alla numero 7, ragazzi, J-Lo, Jennifer Lopez, pretende il colore bianco. Tutto quello che è la tocca, lenzuola, pareti, tavoli, sedie, appennini, fiori e qualsiasi cosa che sia il corredo della sua stanza deve essere bianco. Quindi comunque questa passione per il bianco, che è una cosa che Il nulla. poi ci arriviamo, perché poi voglio sentire le vostre richieste là, non oso immaginare. Alla numero 6, ragazzi, Cher, grande star storica in tutti i sensi, veramente storica, nel senso che ormai è una certa età. Lei ha talmente tante parrucche che porta con sé nei suoi tour, che chiede una stanza solo per le parrucche. Quindi stanza tot Cher, stanza 100 Cher, 101 parrucche di Cher, questa stanza di parrucche e quant'altro. Non si sa bene perché voglia separare la cosa, per questo senso di ordine. Parrucche di ogni genere, di ogni tipo. Giustamente lei è così istrionica, se lo può permettere. Alla numero 5, ragazzi, questa è una sorpresa, tu non te l'aspettavi in particolare, l'hai ascoltato tante volte quando eri più giovane ragazzino. Justin Timberlake. Justin. Non l'ascoltavi? No, di sfuggita via radio, in TV, sì, ma Sì, non è ero chiaro, un quando era outcast. negli NSYNC. Lui ha un particolare problema di, diciamo, è un po' ossessionato dai germi e quindi pretende che tutti i pomelli dei quali andrà ad avere contatto, maniglie, pomelli e via dicendo, siano disinfettati. Non ha questa, non gradisce che ci sia il germe. Magari c'è la cameriera messicana che ha rifatto la stanza prima e ha lasciato, no, deve essere disinfettata. Poco prima, quindi comunque penso giovane, vigoroso, eccetera, sta ritardazione, però col germe lo freghi, sono le cose. Alla numero 4 un attore fuori dagli schemi in tutti i sensi, Will Ferrell. Will Ferrell fa questi film molto alla alternative comico e via dicendo. Will Ferrell anche nelle sue richieste è veramente fuori dagli schemi. Ha chiesto uno scooter elettrico con le ruote arcobaleno e un albero alto 5 metri. Penso sia la stessa cosa che hanno detto gli organizzatori. Lo scooter, ok, le ruote arcobaleno, l'albero. Mi c'entra l'albero. Vuole un albero alto 5 metri, quindi bisogna ospitarlo, bisogna pensarci prima, perché voglio dire. Alla numero 3, lei ormai conosciutissima, popolare sotto ogni punto di vista, Lady Gaga. Lady Gaga, vedo che ti tocca l'argomento. Secondo te, Lady Gaga cosa vuole trovare nel camerino quando un. Un cane, un cagnolino, adesso. No, un manichino con quasi, attenzione, quasi. Può avere anche gli attrezzi, basta che abbiano i peli pubici rosa. Richiede questa cosa, è molto vaporosi, aggiunge. Ognuno ha le sue perversione, non è, attenzione, non è la perversione più strana, perché alla numero 2 c'è Marilyn Manson. Non c'è cammino. Attenzione ragazzi, Marilyn Manson va sempre a sconvolgere il pubblico, eccetera, grandi richieste molto bizzarre per il tour. Alla fine del suo concerto lui pretende di trovare nel camerino una prostituta pallida, calva e senza denti, unitamente a degli orsetti gommosi di una marca particolare di quegli orsetti gommosi Di che si Aripo. chiamano. Esatto. Pensa, pensa, alla fine del tour tu Cercando immagini. di pensare a come potrebbero essere correlate le cose. Sì, voglio. Lasciamo E mi sto stare. immaginando Marilyn Manson che rimette gli orsetti gommosi al posto dei denti alla tizia. Potrebbe essere un uso perché la vuole Oppure in senza testa, gli sale il denti. collo. La drappeggia di orsetti gommosi. Una questione calva e senza denti. Questo è il particolare, Sicuramente forse avrò più. avuto brutte esperienze con il sesso orale, quindi è quello che non vorrei i denti. Ragazzi, potrebbe essere tutto, ma alla fine la numero uno, il più particolare nelle richieste delle star internazionali è ovviamente Iggy Pop. Iggy Pop, fautore del punk di quella corrente alternativa, lo sto andando a prendere già i carabinieri. Ragazzi, Iggy Pop ha 18 pagine di richieste, 18, cioè, boom, queste sono le richieste di Iggy. Misera. Tra cui una persona che interpretasse Bob Hope per 7 giorni, 24 al giorno. Un articolo di USA Today sulle persone obese ha richiesto proprio questo articolo. E addirittura una volta ha chiesto di avere nel camerino i 7 nani. I 7 nani, cioè tu finisci un concerto Questo mentre e era fatto di cosa? vuoi dire. I 7, tutto. Capendo Iggy Pop, non ha bisogno più di nulla. 18 pagine di richieste, tra cui queste cose, quindi non so immaginare le altre che saranno veramente incredibili. Quindi ragazzi, star internazionale La vostra richiesta, una, ma sì che sia una, cioè per sintetizzare, cosa vorreste trovare nel camerino? Avete finito di presentare il vostro films a Cannes? Dopo Cannes siete andati nel camerino e volete assolutamente trovare, non fareste mai a meno di... Cosa? Hamburger, birra, erba. Il pasto americano con un rinforzino all'olandese, insomma. Ci vorrebbe, diciamo, dopo mettendomi nei panni di chi ha comunque un tour di molti mesi, che sta comunque quasi un anno fuori di casa, cioè tu torni dopo un concerto e stai sudato e stai giustamente esausto, dici cacchio. Voglio mangiare, voglio bere e voglio rilassarmi. Certo. E quindi giustamente mangiare bene. Io voglio un materasso ad acqua pieno di whisky. E ci deve essere un buchino in cui io la notte posso girarmi per il whisky che c'è dentro. Wow, quindi una presa, un bocchettone. Sì. E il giorno dopo rischi di restare a terra, ma tanto che te frega, non ti ricorderai nulla. Quindi il materasso d'acqua pieno di whisky, per il vizio per eccellenza, penso questi giovani, cioè, vogliono questa cosa. Io sono rimasta prima, quindi vorrei il Daidan 3. Dove si può Con la faccia mettere? di Jerry Scotti. No, no, quello è suo. No, cancelliamo. Mi accontento così, tanto Scotti, è Scotti. sempre più facile da reperire le sette Dammi nani. San Matteo, Jerry. No, non insistere, è inutile, non attaccano. Sigaro, Scotti. Evviva Gesù Scotti. Ragazzi, il momento di salutarci settimana prossima con la cena dei regini, ma commentare cosa vorreste trovare voi nel vostro camerino, c'è cioè, che c'è il back.it, scrivetelo, se volete un robot giapponese, se volete un materasso pieno di whisky oppure un cibo con qualche spezia particolare, va benissimo Una tutto. pedofilina. Un'altalena, vedi, Se neanche Andrea. volete Andrea in Tu vostra camera. vuoi l'altalena? Andrea in vostra camera, Io quando sono andata su, State andava buoni, via di ragazzi. Daniele, c'aveva un'altalena nel bicchiere e me non ci stavo bene. Bellissima questa cosa. Quindi tu vorresti l'altalena perché ti rilassa. Anche di quelle, sai, coperte, messe tra un legno e l'altro, a mettersi lì a farsi una bella dormita. Dai, ci si accontenta, la maca dice, ci si accontenta anche di poco. Cioè, c'è il back.it perché magari anche tu vorresti accontentare di un qualcosa, un vizietto alla fine del tuo concerto, non vorresti durare lì. D'accordo, scrivilo e commentiamolo assieme, ragazzi. Questa era la cena dei regini, ci vediamo settimana prossima col back, ragazzi, la cena dei regini. Ciao! E Ciao. fate un applausino, dai.